9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 17 di settembre, auguri a quelli che festeggiano nome Roberto, oggi è San Roberto Bellarmino, un santo inquisitore. Allora una brevissima domanda prima di andare al tema della giornata: avete sentito che Berlusconi vuole abolire l'IMU, vuole abolire il Fiscal Compact? Ma il Fiscal Compact non lo ha stabilito il suo governo, non è di lì che vengono poi le cose del più tasse, non è stato Tremonti a fare 3 manovre su 4 l'anno prima, interrogatevi cari amici. E scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? E allora ancora un breve flash europeo, perché questo fine settimana in Spagna e Portogallo ci sono state grandissime manifestazioni contro programmi rigorosi di rientro, ma la Spagna ha già raggiunto a luglio gli obiettivi del suo rientro del deficit per il 2012. Vero è che naturalmente gli obiettivi gli erano stati diluiti nel tempo proprio all'arrivo del nuovo governo, e siamo in attesa di capire come con quale meccanismo la Spagna chiede gli aiuti a questo punto. Attenzione, perché il meccanismo col quale la Spagna si metterà d'accordo con le istituzioni europee e la BCE è una specie di punto di riferimento a cui i mercati guardano per capire come e se l'Italia dovrebbe o potrebbe seguire, con quali modalità, punto interrogativo. Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Perché no? Andiamo al tema della giornata. Il tema della giornata è pressoché obbligato per l'attenzione con cui abbiamo seguito negli ultimi 2 anni e mezzo la vicenda di Fiat di Fabbrica Italia. E si tratta di spiegare, di chiedere opinioni a diversi interlocutori su come assistono e come giudicano la ripresa, il riabbampare della polemica a seguito della nota con cui 4 giorni fa Fiat ha formalizzato che il progetto di Fabbrica Italia non è più all'ordine del giorno, insomma, insieme ai suoi 20 miliardi di investimento. Che cosa prometteva il progetto Fabbrica Italia? Il suo obiettivo finale era quello di 6 milioni di auto prodotte nel mondo e 1.400.000 in Italia, quindi si trattava di moltiplicare per 4 i livelli di allora prodotti in Italia. E nella versione iniziale questo piano prevedeva aumenti di produzione sia a Mirafiori, 100.000 vetture, sia a Melfi, 400.000, a Pomigliano, 250.000, e di quadruplicare i volumi produttivi di Cassino. Si promettevano 51 prodotti, 34 dovevano essere nuovi modelli, 17 i restyling. E i 2/3 di questi nuovi modelli o di restyling erano direttamente prodotti da Fiat, 1/3 veniva da Chrysler. C'erano 7 novità per l'Alfa Romeo con 2 restyling, e l'ampliamento della gamma Jeep in Europa con tre nuovi modelli prodotti da Chrysler e anche qui tre restyling. Nel 2013 si prevedeva il debutto di un nuovo SUV nel segmento D e della nuova Jeep Cherokee. L'obiettivo era quello di ricavi nel 2014 per 93 miliardi di euro e si diceva che l'incremento sarebbe stato del 55% rispetto al record raggiunto nel 2008. Sapete perfettamente, lo ricordo a chi si fosse distratto, ma mi pare improbabile, che a base di questo progetto l'azienda guidata dall'amministratore delegato Sergio Marchionne ha lanciato un programma di rilancio della produttività aziendale attraverso un'intesa aziendale sostitutiva, un'intesa di primo livello sostitutiva del contratto nazionale di categoria. Su questa vicenda per due anni si è sviluppata una polemica violentissima. CISL e UIL hanno trattato e hanno accettato insieme ad altri sindacati di seguire l'azienda nel rilancio della produttività in nome del programma di Fabbrica Italia. La FIOM si è sempre opposta, ha detto che era una violazione dei diritti, ha sempre detto di non credere mai e poi mai agli obiettivi, ai numeri promessi in Fabbrica Italia. Ha votato no nelle urne, poi è passata la conferma dei lavoratori, la FIOM ha continuato fino alle impugnative giudiziarie. Dopo la nota emessa dalla Fiat quattro giorni fa, all'indomani, sorpresa, Diego Della Valle, amministratore, il patron della TOTS, voglio dire, emana una nota a propria volta durissima all'indirizzo dell'azienda torinese. Usa un linguaggio veramente di una violenza che non è abituale quando sono gli imprenditori a giudicare l'uno con l'altro se stessi. Parla di furbetti cosmopoliti, parla di un amministratore delegato Marchionne inadeguato e in subordine del suo presidente, quindi rilancia l'accusa che già aveva lanciato ai tempi dello scontro in Mediobanca per RCS e per Generali nei confronti di Iachi Elkann, e conclude con una durissima bordata rispetto a questa ritirata non degna, e lo fa a nome degli imprenditori italiani che invece continuano a produrre in Italia, che con dignità e con onore non si vergognano di essere italiani e non sono in fuga. Cesare Romiti, ex leader storico da metà degli anni 70 per un quindicennio della Fiat come amministratore delegato prima, poi come presidente, a sua volta ha attaccato durissimamente l'azienda torinese, addirittura elogiando la FIOM, unico sindacato, ha detto che si è opposto a questo progetto che non sta in piedi. I giornali, reazione di Montezemolo subito alla nota di Della Valle che parla di un linguaggio non accettabile. Sui giornali in questi ultimi due giorni si parla di un amministratore delegato Sergio Marchionne che è stato raggiunto dalla telefonata del ministro Fornero e del ministro Passera, che è amareggiato e sorpreso di fronte alla novità, a nuova durezza di queste reazioni, perché dice: ma questi signori li vedono o non li vedono i numeri del mercato, visto che ad agosto ne abbiamo già parlato, vi ricordate, quando sono usciti i numeri del mercato ad agosto, il mercato italiano è tornato più indietro di 40 anni fa rispetto ai suoi volumi. Come pensano che io possa andare avanti in queste condizioni, visto che quando ho posto il problema della sovraccapacità in Europa, ne abbiamo anche qui parlato, numeri alla mano, di quale sia, quanto ampia sia la percentuale di sovraccapacità degli stabilimenti auto, dei quasi 110 stabilimenti auto che sono in Europa, e l'Europa non vuole affrontare questo problema. Andiamo a vedere, prima di presentarvi gli ospiti, ancora come i giornali stamattina presentano la vicenda. Dell'intervista al ministro Fornero avete appreso dall'edizione del GR che ci ha preceduto, e sulla Repubblica il titolo è: Marchionne risponda, noi non possiamo aspettare. La Repubblica è oggi, secondo me, il quotidiano più completo da questo punto di vista, perché ospita nel suo supplemento economico finanziario diretto da Giannini un articolo come editoriale molto duro nei confronti di Torino. Il titolo è: la dottrina Ponzio Pilato per la Fiat. Vi leggo solo l'attacco per farvi capire la durezza del commento. Massimo Giannini scrive: solo le false anime belle del sindacalismo giallo, sarebbero Cheese the Wheel, possono mostrarsi stupiti di fronte all'annuncio di Sergio Marchionne. C'era una volta Fabbrica Italia, adesso non c'è più, e giù dalle parti di Cheese the Wheel lacrime di compunzione mista a indignazione, come se quella del grande progetto industriale, mai nato ma smerciato dalla Fiat dall'aprile 2010, non fosse la cronaca di una morte annunciata. Quindi durissimo questo commento, ma al contempo Repubblica invece nel suo fascicolo ordinario del lunedì in prima pagina mette un bellissimo articolo, come a me capita di pensare quasi sempre quando la firma è la sua, di Alessandro Penati. E Alessandro Penati scrive, con un titolo che dice tutto, "Perché difendo il manager". E in questo lungo articolo, che vi consiglio di leggere, gli argomenti sono: primo, un argomento generale. Marchionne è diventato una specie di simbolo al mondo di tutto ciò che all'Italia manca, cioè la competitività, e su questo invece vi rinvio al Corriere della Sera di oggi, che a pagina 2 e 3 in tabelle comparate vi fa capire la gravità della perdita di quasi 30 punti di competitività verso i paesi più avanzati e di 20 punti in media rispetto a quelli europei negli ultimi due decenni, e di come da noi negli ultimi 10 anni il costo del lavoro per unità di prodotto continui a salire più o meno in media del 2,7% l'anno in Italia, in Germania appena dello 0,2%. Questo è il primo argomento di Penati, dicendo: il problema posto da Marchionne, quello della bassa produttività italiana, è un problema fondato, quindi inutile prendersela con lui. E poi c'è un secondo argomento, che è un argomento ficcante, perché dice chi critica poi Marchionne perché avrebbe condotto la Fiat a un'indegna ritirata, dimentica che dal suo arrivo la capitalizzazione del gruppo Fiat, inclusi autocarri, macchinari e componenti, è salita da 6 a 16 miliardi, cioè ha registrato un più 161%, molto meglio del 70% del settore europeo. E anche dal marzo 2010, quando fu annunciato appunto il piano ora abortito di Fabbrica Italia, scrive Penati, ecco, anche da allora il gruppo Fiat in borsa ha tenuto il passo della concorrenza europea, con le celebrate BMW, Daimler e Volkswagen, nonostante una recessione molto più dura in Italia. In altre parole, Penati dice: Marchionne non aveva alternative, e comunque l'autore del balzo in groppa da una condizione tecnica di semifallimento di Fiat al Chrysler, che riposiziona e dà forza e margini a Fiat nel mondo, pur tenendosi strette Polonia e Brasile, dove faceva i margini da 15 anni, non li faceva mai in Italia. Questa operazione di Marchionne è stata possibile solo perché Marchionne è bravo, e in questo è inutile prendersela. Come reagiscono i sindacati? E poi vado ai nostri ospiti. Questa mattina, proprio pochi minuti fa, il segretario della CISL, che è uno dei due sindacati colti più naturalmente in difficoltà dal rinuncio della parte dell'azienda del piano sulla base del quale loro avevano seguito le intese aziendali di produttività, Raffaele Bonanni, ha dichiarato: per fortuna che l'abbiamo fatto quell'accordo, no, non me ne sono pentito, lo ha detto parlando alla telefonata di Belpietro su Canale 5 10 minuti fa. E poi ha così proseguito: si devono pentire quelli che fanno disfattismo. Questa è la formula attraverso la quale Bonanni di solito si rivolge alla FIOM e alla CGIL. Noi con quell'accordo, ho detto, abbiamo costretto la Fiat a investire 800 milioni di euro a Pomigliano già investiti e a trasferire la produzione della Panda dalla Polonia in Italia. Come è evidente, durissimi commenti da parte della CGIL in questi giorni. La CGIL ha fatto una battaglia aperta di scetticismo nei confronti della Fiat, e ieri, concludendo la festa della CGIL a Roma, Susanna Camusso ha parlato a questo punto di mettersi alle spalle le polemiche retrospettive, cioè chiede ai meccanici della CISL, della UIL e di altri sindacati di preparare uno schema unitario insieme alla FIOM della CGIL, prendendo atto che in questi anni di battaglia, in altre parole, l'azienda avesse torto e chi ha detto no avesse ragione, un po' come dice Cesare Romiti. Io personalmente ho fatto notare alla Cabusso che non ricordavo un segretario della CGIL che potesse contare sull'endorsement di Cesare Romiti. Vediamo però come la pensano ospiti che sono più titolati di me. Abbiamo innanzitutto con noi Luca Ciferri, che è il direttore di Automotive News Europe. Automotive News è la Bibbia per chi segue naturalmente gli sviluppi quotidiani del mercato dell'auto a livello mondiale. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno Luca. Buongiorno. E Giorgio Airaudo, che è responsabile nazionale auto della FIOM. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Senti, come ti senti avendo Romiti scritto d'onore come tessera numero uno della FIOM? Ho trovata una cosa divertente, devo dire, mi ha stupito più Romiti della Valle. Sì, anche a me. Comunque, senti, aspetta, stai fermo lì che ci facciamo spiegare da Luca Ciferri se invece la sorpresa che c'è in Italia c'è stata anche a livello internazionale rispetto a questa nota che diceva il piano Fabbrica Italia va in naftalina, anzi non c'è più, non è più all'ordine del giorno, e secondo se ci può un po' spiegare alla luce anche di come è andata la Convention Chrysler con i dealers in America, come sia lo stato d'animo invece nei confronti di Marchionne e della Fiat negli Stati Uniti rispetto a quello che si sta realizzando di margini e di promesse realizzate. Lì le promesse sono realizzate o meno? E nei termini europei, gli sviluppi della battaglia di Marchionne che lo portò a polemizzare con i tedeschi, con una durissima reazione dei tedeschi 3 settimane fa, a che punto stanno per l'azienda rispetto alla sovracapacità europea? Facci un po' il punto della situazione. Allora, all'estero si guardano molto alle date e ai dati. E quindi c'è una certa sorpresa, in quanto quello che la Fiat ha detto nel comunicato stampa il 13 settembre, la morte di Fabbrica Italia, è esattamente identico a quello che la Fiat ha detto la prima volta il 27 ottobre 2011, cioè praticamente un anno fa. Fabbrica Italia è stata dichiarata morta per crisi di mercato un anno fa. Quando è stata annunciata la morte non se ne è accorto quasi nessuno. 11 mesi dopo ne è nato il putiferrimo che stiamo vivendo in questi giorni, quindi abbastanza strano. I fatti erano quelli, le dichiarazioni erano quelle, è passato un anno. Ma soprattutto quello che a me francamente fa impazzire è che si continui a decontestualizzare le cifre. E mi spiego, i 20 miliardi che vengono annunciati nell'aprile del 2010 sono a livello mondiale di un gruppo Fiat che all'epoca comprendeva anche i camion di Iveco e le macchine agricole di Case New Holland. In altre parole, ricostruzione del Sole 24 Ore del collega Andrea Malani, gli investimenti di Fiat Auto nei 5 anni erano 13 miliardi, di cui secondo lui 5 in Italia, secondo me 7, ma poco importa. Cioè, continuare a scrivere oggi che Fiat in Italia nell'automobile deve investire 20 miliardi in 5 anni per un'azienda che fattura circa 28 miliardi l'anno, caro Oscar, vuol dire che la Fiat sarebbe fallita perché investendo il 14% del fatturato l'anno si muore, non lo fanno neanche i premium tedeschi. Quindi gli investimenti erano diversi, il Fiat li ha comunicati male, ha sempre avuto una certa, diciamo, allegria comunicazionale a comunicare gli investimenti. Che quello però poi che ti si ritrace contro. Assolutamente, perfettamente d'accordo, come bisognerebbe tenere conto che, se ci ricordiamo la famosa polemica sindacale degli anni 70, che il salario è una variabile indipendente, sembra che oggi il discorso è che gli investimenti sono una variabile indipendente. Cioè, il piano del 2010 era basato su delle assunzioni che vengono dagli analisti di Global Insight, che sono considerati da tutti i costruttori bene o male il bigino su cui fare i piani. Quei dati, che erano ritenuti tra l'altro da noi addetti ai lavori persino pessimistici nel 2010, dicevano che in Italia quest'anno si erano venduti 2.200.000 macchine, cioè 800.000 di più di quello che succederà, il 30% su 800.000 vendite perse fa 240.000 macchine, cioè uno stabilimento, e che in Europa se ne sarebbero venduti qualcosa come 2.100.000 in più. Quindi la situazione è quella di un mercato che è cambiato. Cosa è successo in America quando il mercato è andato giù di un 30% in 2 anni? Si sono chiuse fabbriche, si sono chiusi concessionari, si è adattata la capacità produttiva a quella che erano le nuove dimensioni del mercato. Il mercato americano quest'anno farà 14 milioni, continua a essere lontano 3 milioni dai 16, 9, 17 che sono stato il suo quinquennio d'oro prima della crisi. Però continua a essere ben sotto la Cina, che è il primo mercato. Continua a essere dal 2009 sotto la Cina, però essendo stata l'industria ristrutturata quella che era la domanda del mercato, l'industria oggi riesce a guadagnare, Chrysler guadagna, GM e Ford guadagnano molto di più di quello che fa Chrysler, quindi si è arrivati a un bilancio tra domanda e offerta. In Europa, tu lo sai che qui la grande polemica aperta da sempre è vero che gli americani ristrutturano rapidamente, lo fanno però col denaro del contribuente, io ribatto sì, però poi se lo fanno restituire indietro, però insomma questo è un altro grande filone. Fammi cambiare un attimo prospettiva. A me, se io fossi Marchionne, andrei molto volentieri da Passera e dalla Fornero, ma a fare una domanda: qual è il piano del governo italiano per l'automobile? Cioè, l'America ha messo dei soldi sul piatto in cambio di delle cose. La Francia, quando c'è stata la crisi del 2009, ha dato 3 miliardi di euro a tasso agevolato sia a Peugeot Citroën sia a Renault, più 1 miliardo alle loro finanziarie per continuare ad andare avanti gli investimenti e per continuare ad andare avanti a poter finanziare le macchine che i clienti compravano. Quindi altri paesi davanti alla crisi hanno avuto una reazione dicendo: noi vi diamo dei soldi a prestito, a tasso agevolato, nessun contributo a fondo perduto del passato. ma vi chiediamo degli impegni. Qui, dalla crisi del 2009, non è stato fatto assolutamente nulla. Ora si chiama un'azienda privata a rapporto, perfetto, benissimo. Io però quello che chiederei è: che cosa volete voi dell'automobile che andate a penalizzare? La tassa di lusso è stata la più grossa idiozia che si poteva fare. Abbiamo fatto i numeri degli effetti della tassa del lusso la settimana scorsa. Ma soprattutto chi comprava una macchina di quel genere era un grande contribuente, nel senso che mollava mediamente 20-25 mila euro di IVA solo sull'acquisto, e poi siccome la nostra vera patrimoniale in Italia è la benzina, siccome quelle macchine ne consumano una quantità metà elevata, stato, 51% continuavano a pagare la patrimoniale alta sul carburante. Ultimo flash, un secondo, poi vado a Giorgio Eraudo. Ma negli Stati Uniti le promesse si considerano mantenute, i margini, gli utili della restituzione del denaro del contribuente in Chrysler, c'è, cioè, che allora c'è? Chrysler è stato reso tutto con gli interessi, con 5 anni d'anticipo sugli impegni presi. C'è una perdita di 2 miliardi di dollari sulla azienda preesistente, cioè l'azienda che è andata in fallimento, si è mangiata 2 miliardi. Quello che la gente invece dimentica, trova affascinante, è che quando si parla di industria di Stato, tutti dimenticano che tuttora il Tesoro americano è il principale azionista di General Motors, tornata ad essere la prima casa al mondo con il 32%, perché là, siccome non avevano bisogno di troppi soldi, non gliel'hanno potuti dare come prestito, gliel'hanno dati come capitale. Hanno messo in quota una borsa, quindi, e quella quota è sotto del 30%. Quindi a Marchionne, in altre parole, nessuno gli imputa se non buoni risultati di aver mantenuto gli impegni addirittura con anticipo. Qui in Italia già cominciamo da tempo a dire che forse un governo doveva dire a Fiat: ma perché non ci consentite di agevolare l'ingresso di un concorrente diretto produttore in Italia, tipo questa Alfa Romeo? Non è che potremmo per caso chiedere ai tedeschi di Volkswagen se vuole un solo marchio, ma anche stabilimenti in Italia. Ne parlammo anche in questa trasmissione, ne parlammo anche con Giorgio Eraudo della Fiomme. Intanto gli chiedo una sua valutazione. Ovviamente lui non sarà sorpreso di queste polemiche, ma come mai un anno fa, quando dice Luca Ciferri, era già evidente che Fabbrica Italia non c'era più, le reazioni non sono state queste, secondo te, Giorgio? Vai, perché io penso che, adesso andiamo con ordine, perché Ciferri ha detto molte cose che peraltro io condivido, però partiamo da una cosa: la Fiat è responsabile dell'equivoco sui 20 miliardi, perché nell'eccesso di polemica e nella scelta di comunicazione affidata tutta a Marchionne, questo equivoco è stato volutamente usato. A me quei numeri sono sempre stati chiari, la divisione, come si dice, degli investimenti tra l'Italia, però era la Fiat che ha sempre detto investiremo 20 miliardi in Italia, c'è fior fior di dichiarazione, e in qualche modo è vittima di questo equivoco, e ne sono vittima anche i creduloni. Nei creduloni c'è tutta la classe dirigente di questo paese, gran parte del movimento sindacale, che ha creduto, raccontato, spiegato ai lavoratori, spiegato ai cittadini, usato nella polemica che 20 miliardi sarebbero investiti. Il secondo problema è che il piano industriale di Marchionne, che Marchionne ha sempre detto con chiarezza era suo, non lo negoziava con nessuno, non lo condivideva con nessuno, tantomeno con un governo, è sembrato una manna per il cielo alla politica italiana. La Fiat non ci chiede nulla, noi non dobbiamo rispondere agli elettori di dover finanziare la solita Fiat secondo quella che era vulgata corrente, quella che era la vulgata nel primo governo di centrodestra di una forza politica strategica come la Lega all'interno di quel governo. Non è parso vero di credere a questa ipocrisia. Cioè, se in Italia al momento della crisi nel 2008 si fosse fatto un discorso serio con la Fiat e si fosse fatto esattamente come negli Stati Uniti, e magari in Italia poteva restituirle anche 5 anni dopo i soldi, per capirci, e si fosse messo a disposizione quelle poche risorse e si fosse discusso di cosa produrre, noi avremmo qualcosa da pretendere da Marchionne. Invece Marchionne non ha un piano condiviso, non ha un piano esigibile. Il piano è suo e lui lo modifica e lo adatta in base al mercato. Quindi anch'io sono sorpreso di chi si stupisce. A me era chiaro, io non ho pensato l'altro giorno che il comunicato della Fiat dicesse particolari novità. Capisco che chi ha creduto oltre l'inverosimile oggi si trovi totalmente spiazzato e cerchi, alzando la voce, di coprire anche le proprie responsabilità, perché io penso che non solo i lavoratori sono stati lasciati soli nella crisi dai governi di questo paese, penso che anche la Fiat è stata lasciata sola. Poi diciamo che da un certo momento in poi a Marchionne è convenuto essere lasciato solo. A Ciferri vorrei dire una cosa: io penso che Marchionne abbia sbagliato una valutazione, però ed è la valutazione su quanto durava la crisi. Marchionne era convinto che la crisi sarebbe stata breve, l'ha detto, l'ha spiegato un mucchio di volte, che nel giro di un anno ci sarebbe stato, come si dice, almeno un rimbalzo utile in Europa. Un po' come era successo quando era arrivato lui, per capirci. Lui, tra diamogli l'attenuante che è la gravità delle dilazioni dell'insufficiente politica europea, non ci sono solo i guai della politica italiana, ma quella europea, sì, però, che ha protratto l'eurocrisi, insomma, erano un po'... Adesso, come dire, quando uno costruisce un piano di quel tipo, genera delle aspettative, chiede impegni immediatamente ai lavoratori, perché vedi, a Mirafiori si lavora è chiaro. Ma quando si lavora 3 giorni al mese, 10 minuti di pausa sono stati tagliati. È chiaro, cioè, sì. I lavoratori divisi dai referendum imposti per, secondo me, dall'azienda, la loro parte l'hanno fatta. Quella che è mancata, secondo me, è stato il governo italiano, è stato un elemento di chiarezza. Ora io penso che la FIAT debba dire la verità, perché è meglio dire la verità oggi, perché il piano del 1.600.000 veicoli, perché c'erano anche 200.000 veicoli commerciali che si aggiungevano, sì, al 1.400.000 automobili, è lontanissimo da essere raggiunto. E se stessimo e se ci adattassimo oggi al mercato, bisognerebbe essere sinceri, ne basta una di fabbrica, basta mezzo. Appunto, cioè, stai chiedendo che la FIAT ci dica... Da 400.000 vetture ne basta una, bisogna saperlo di cosa stiamo parlando. Aspetta, prima di andare in pubblicità e poi torniamo da Eraudi perché dobbiamo salutare Ciferri. Ciferri, secondo quello che da un anno dice, cosa significa a tuo giudizio per gli stabilimenti italiani residui? Quanti in meno? Direi uno di commerciali che c'è, di video commerciali c'è, rimane, quindi lasciamolo fuori dall'equazione. Sono d'accordo con Eraudo, secondo me a essere ottimisti con quello che è il mercato italiano e europeo di oggi ne bastano due, ergo bisogna chiuderne due. Però devo dire che Marchionne, se ha sbagliato le previsioni, era in ottima compagnia, perché tutta l'industria automobilistica europea riteneva nel 2010, che era il terzo anno di crisi, con la storia passata che le crisi duravano 3 anni e poi al quarto si cominciava a riprendere, che sarebbe ripresa, tant'è che la Fiat ha aperto la Serbia, ma la Ford ha riaperto la Romania, quindi non è stata l'unica casa a crescere la capacità davanti a un'attesa che la crisi dopo 3 anni sarebbe stata, invece siamo al quinto anno di crisi consecutiva e nella migliore delle ipotesi dal 2013 stabilizziamo sia in Italia sia in Europa sul punto morto inferiore che abbiamo raggiunto adesso, quindi non era prevedibile e non l'hanno previsto tutti. Poi, come dice giustamente Oscar, i debiti sovrani uno non può mettere in un business plan. No, certo, però per capirci questo significa, in parole povere, che a Pomigliano l'investimento è già stato fatto, quindi diciamo che resta. Mirafiori l'investimento non si fa, se andasse come dice Luca Ciferri, quindi Mirafiori addio, del resto siamo ad anni e anni di cassa, resta la Seven e poi tra Melfi e Cassino ci sarebbe la gara a chi resta, più o meno una cosa così. Se i volumi rimangono questi e purtroppo non c'è nessuna indicazione che possano migliorare, anzi io personalmente sono convinto che peggioreranno sia in io Europa. Io penso anche che la coda lunga della compressione del reddito disponibile nei paesi euro deboli sia molto lunga, quindi anch'io la penso come te, quindi con questi numeri avete capito dal nome degli stabilimenti che stiamo facendo che questa è la realtà da affrontare, prima lo si fa meglio è. Stiamo parlando del caso Fiat dopo il no definitivo da parte dell'azienda dopo l'addio al progetto Fabbrica Italia. Stavamo parlando dopo Luca Ciferri, direttore di Automotive News Europe, che ci ha confermato che non si tratta di una novità e che in Italia hanno fatto finta di non capire, ed è la stessa tesi ovviamente di Giorgio Eraudo, che è con noi responsabile nazionale auto della FIOM. Chiedo ad Eraudo a questo punto cosa può voler dire ripensare a una posizione unitaria nei confronti dei meccanici di CISL, degli altri sindacati che invece hanno detto sì, hanno seguito sull'accordo aziendale di produttività sostitutivo del contratto nazionale di primo livello, terreno su quale non vi siete mai intesi. C'è davvero una prospettiva di questo tipo o è solo per fargli rimarcare, poveretti, ci avete creduto? No, guardi, il problema è questo. Noi abbiamo innanzitutto bisogno di ristabilire la verità dal punto di vista produttivo industriale, perché le cose che lei sta dicendo, che Ciferri ci ha detto stamattina, che io in parte dal punto di vista della descrizione della realtà condivido, non sono patrimonio comune, cioè non si sta dicendo... No, non sono la vulgata su cui si scrive, no, questo. No, non lo sono assolutamente. Allora intanto bisognerebbe che il malato avesse una diagnosi condivisa e questa cosa la può fare paradossalmente l'unico demiurgo è Marchionne. Marchionne deve dire la verità. Poi la giustificherà come meglio crede, la racconterà come meglio crede, ma deve dire la verità al paese, cioè deve dire cosa può fare per mantenere l'industria dell'automobile. Poi c'è la seconda cosa, il governo non può chiedere chiarimenti, anche perché chiedere chiarimenti su un piano che l'azienda ha detto che non c'è più è ridicolo, cioè di che cosa chiariamo? Chiariamo il nulla. D'accordo. Allora, il governo, anche qua Ciferri ha detto una cosa importante: il governo deve dire se l'industria dell'autoveicola è strategica per il paese e cosa intende fare. Poi Marchionne dirà cosa può fare dentro, di fronte a una domanda del governo. Io credo che da solo Marchionne non sia in grado di soddisfare quella che secondo me è un'esigenza strategica dell'Italia, mantenere un'industria dell'autoveicolo, e per questo sarebbe interessante coinvolgere lo stesso Marchionne e la Fiat in una discussione sulla possibilità di portare nel nostro paese un altro produttore, visto che lui tutti gli impianti non è in grado e non sarà in grado di saturarli, indipendentemente dagli accordi sindacali che ha firmato. Quindi bisognerebbe, come si dice, mettere da parte quegli accordi, lasciarli perdere, perché tanto quegli accordi lì non servono neanche alla Fiat, sono serviti a fare una battaglia e un tentativo di isolamento verso una parte del sindacato, la FIOM, ma non sono serviti a fare più turni, più straordinari, perché non c'è questa esigenza produttiva. Fiori si è in cassa, quindi che turni quindi non stiamo, ci sono le pause, che secondo me è stata una cosa inutile dentro una crisi di questo tipo, tagliare 10 minuti di pausa, ma in questo momento i lavoratori non si lamentano neanche di quello, perché se uno lavora 3 giorni al mese, certo, altra cosa è alla Sevelli in Abruzzo, dove si lavora e non si fa cassa integrazione, e 10 minuti di pausa determinano fatica, cose di cui abbiamo già discusso anche con lei. No, certo, certo. Quindi in altre parole, il governo deve farci sapere, anche lui a questo punto, anzi un po' in ritardo, se può seguire una delle strade legittime. Io non mi convincerà mai che seguono altri paesi che fanno come la Francia. La Francia ha fatto quello, non solo nel 2009, quello che ricordava Ciferri, adesso appena eletto Hollande ha richiamato Peugeot, che insieme a Opel e Fiat sono quelli più esposti al mercato europeo, e infatti anche Peugeot ha detto dopo le elezioni: ragazzi, io devo in 2 stabilimenti salutare e mandare via la gente. Il presidente ha detto non se ne parla nemmeno, cioè quella è una via, cioè dire lo Stato fa ma vi impedisce di andarne. Ce n'è un'altra di cui abbiamo già parlato, che è quella di dire comunque per l'Italia, visto che c'è un automotive che vale ancora più di 40 miliardi, che per metà è ancora purtroppo centrato sulla Fiat, altri produttori, vediamo un po' che si può fare. Cioè, esiste questa strada concretamente, secondo lei, Auraudo? Sì, secondo me esiste. Ovviamente esiste e ruota intorno al marchio Alfa. Io capisco che Marchionne pensa che il marchio Alfa è una risorsa anche finanziaria, di mercato, anche nei mercati in cui lui sta ritornando, dagli Stati Uniti all'Asia, per capirci. Però, come si dice, un compromesso Marchionne lo deve fare con questo paese, e il governo deve difendere il paese. Allora, Marchionne legittimamente va in cerca di altri mercati, ha denazionalizzato la Fiat, non è più una multinazionale nazionale, ecco, scusi il bisticcio di parole. No, no, certo, certo. È un'azienda che si è internazionalizzata, è meno italiana. In Italia lui ha un problema e questo problema va gestito. In quel caso guadagnare tempo sarebbe strategico, per cui rispondendo alla sua domanda di prima, se gli altri sindacati metalmeccanici sono disponibili a ripartire dal piano industriale che non c'è, a chiedere insieme al governo, che il governo ci dica se l'auto è strategica, noi siamo sempre stati disponibili a discutere. Va da sé che quel contratto, che da solo doveva garantire gli investimenti, e 20 miliardi l'ha sempre detto Marchionne, l'equivoco l'ha generato la Fiat, e poi doveva, come si dice, con quei turni garantire l'arrivo di volumi fino a 1.600.000 vetture, che non raggiungeremo mai, non è possibile raggiungere, a maggior ragione di fronte alla situazione economica che conosciamo. Quindi ci serve una presa d'atto della realtà, la Fiat deve dire la verità, il governo deve dire cosa propone, non cosa chiede alla Fiat, non deve, come si dice timidamente, fare fracchia per capirci di fronte a Marchionne, deve, come si dice, i sindacati devono difendere i lavoratori, e oggi i lavoratori si difendono chiedendo chiarezza. Allora, grazie anche a Giorgio Iraudo. Abbiamo con noi adesso Riccardo Ruggeri, che più volte in questi anni abbiamo pizzicato, per così dire. Riccardo Ruggeri è entrato in azienda come operaio e ne è uscito nel Comitato Strategico Internazionale, perché aveva portato nel recinto Fiat quello che poi sono diventate le macchine agricole, una delle divisioni che poi ha prodotto più utile, ed era lui a fare questa operazione. Quindi insomma, ha salito tutti i gradini dal basso, io non ho una stima assoluta, lo conosco come una persona integerrima. Di volta in volta abbiamo seguito il dibattito del procedere di queste promesse, e io lo conosco anche, mi ricordo il libro di cui parlammo, il caso Marchionne, il Rebus Marchionne. Però detto questo, gli chiedo oggi, a Riccardo Ruggeri, salutandolo, la sua reazione di fronte a queste nuove polemiche, anche per lui non sarà una sorpresa, ma che pensa davvero di quello che può succedere adesso? Ma grazie della presentazione. Io sono felice, se ti devo dire la verità, come innamorato Fiat, che sia venuto, finisca questa, io dico, sceneggiata di Fabbrica Italia. Della Fabbrica Italia. Perché se credo che la maggioranza di noi deve fare autocritica, il 99% di noi, sia sindacali, sia analisti, sia di qualsiasi tipo, sia italiani, perché credo che in gran parte non l'hanno mai letto, e l'abbiamo semplicemente guardato dal punto di vista delle rispettive posizioni nei riguardi delle relazioni industriali, che è stato un errore colossale, perché quello non c'entrava niente, era una cosa assolutamente secondaria. Se fosse stato analizzato secondo le regole del business dell'auto, che sono delle regole feroci, bisogna avere i prodotti, bisogna seguire tutti i cicli di rinnovo, vuol dire, significa che ogni 4 anni bisogna fare determinate cose che significano investimenti, ed è chiaro che se per caso si salta un ciclo di rinnovo si fanno quattrini, ma si perderà nel lungo periodo. Perché non si investe poi sul futuro, non si riesce a tenere il passo degli altri. Infatti, oggi nel mondo, quando parliamo di automobili, solo 2 hanno seguito sistematicamente i cicli di rinnovo, e non per nulla sono i 2 leader, Toyota e Volkswagen. L'altro è l'alibi della crisi. Questa ce la dobbiamo togliere dal punto di vista, perché nel business, secondo me, un grande manager, la crisi è una cosa che non esiste, nel senso che se tu hai un break-even point, cioè un punto di pareggio molto basso, come devono avere le aziende di successo, tu guadagni una barca di soldi quando il mercato tira, e vai in pareggio quando il mercato perde. Va giù. Va giù, ma va giù tanto. Allora, quando sento parlare di questi numeri, tu hai citato i trattori, negli anni 80 perdevano ogni anno il 50% di volumi. È chiaro che si è ridimensionato tutto, ma quelli di successo, cioè per esempio, sono diventati leader assoluti perché avevano il break-even basso. Quindi sotto questo punto di vista, a parte che poi nell'analisi finale, pur arrivandoci con strade totalmente diverse, sono totalmente d'accordo con Aiardo, ripeto, arrivandoci da posizioni diverse, che cosa fare? La soluzione c'è, ed è quella di cui parlava Riaud e di cui io ne parlo da tantissimo tempo, sì. E cioè il secondo costruttore. Chiaro che questo ha un significato, non deve essere visto come un qualche cosa che interviene lo Stato non deve intervenire, cioè è semplicemente seguire il modello Thatcher Nissan della fine degli anni 60. Esattamente. 70. Quello che ha portato la Gran Bretagna, certo, a non avere più case nazionali, ma a moltiplicare il numero di auto prodotte e a preservare quel po' di automotive che hanno. Noi ne abbiamo molto di più, di migliore eccellenza e valore aggiunto. Se la politica continua a stare a braccia conserte, e anch'io, come Riccardo Ruggeri, sono contrario agli interventi diretti, niente iniezione di capitale, niente incentivi, eccetera. Il problema è però non far finta di non vedere quello che sta accadendo. Da anni sta accadendo che l'ex grande casa madre è altrove a fare le sue cose, e fa bene, secondo me, perché l'alternativa sarebbe stata altrimenti la morte. Ma però il produttore alternativo bisogna in qualche maniera vedere di incentivarlo, perché altrimenti l'Italia è nelle condizioni di competitività svantaggiata terribile, di cui questa storia è un'altra conferma, è un'altra tessera purtroppo del declino italiano. Abbiamo sentito la posizione di Giorgio Eraudo Fiomma, responsabile auto. Luca Ciferri ci ha confermato che la Fiat ha comunicato male, visto che tutti prendono sul serio ancora i 20 miliardi che non erano affatto 20 miliardi. Ripartiamo però da un'analisi seria di come si fa ad attirare in Italia produttori alternativi, perché altrimenti l'automotive italiano muore. Un pezzo della filiera poi è quella dei concessionari di auto, che stanno alle prese con enormi guai. Se pensate che abbiamo un agosto alle spalle, che era come in termini di unità vendute quello di metà degli anni 60. E con noi Filippo Pavan Bernacchi, che è il presidente di Federauto, proprio la federazione dei concessionari di auto italiani. Per voi questa cos'è? Un'altra campana che dà un pessimo segnale? Non voglio dire a morto, perché mai, però insomma un'altra pessima musica che inizia, Pavan, o no? Ma guardi, allora innanzitutto far dire che il mercato è tornato indietro di 40 anni è sicuramente vero in termini di volumi, ma 40 anni fa i competitor nel mercato nazionale in termini di marchi erano la radice quadrata di quelli che ci sono adesso, quindi adesso è molto peggio perché chi divide la torta, i costruttori sono molti di più. Noi abbiamo un problema di sovrapproduzione, come ha ricordato Ciferri, che distrugge poi la possibilità per la filiera di fare dei margini. I concessionari, noi occupiamo 178.000 addetti in Italia con l'assistenza più l'indotto, non ce la possono più fare e quindi bisognerà agire a monte, perché non possiamo più sopportare la sovrapproduzione, perché noi poi le macchine le paghiamo e facciamo anche i piazzali e le case automobilistiche, quindi gli facciamo un po' da banca e anche un po' da piazzalisti, e questo non si può più fare. L'economia è in difficoltà, l'edilizia e le auto sono i beni più costosi che può affrontare una famiglia o un'impresa, e quindi sono in difficoltà, ma noi abbiamo in Italia il problema del governo Monti. Noi abbiamo avuto un attacco frontale del governo Monti, dei professori, l'IVA che su un telefonino sono pochi euro, sono 220 euro ogni punto di IVA, le accise, le tasse dall'IPT, il bollo, il superbollo hanno ucciso i consumi e quindi... E meno consumi, più disoccupazione, siamo entrati in un loop recessivo come ha confermato. Quindi c'è il problema generale dell'economia, l'aumento fiscale, la supertassa oltre 2000 cc, la Fiat che se ne va. Poi mi dicono perché ho fatto www.fermareildeclino.it. Venite a firmare, va, a domani.